Il terzo anello, ad alta voce, I viceré, di Federico De Roberto. Le squadre erano finalmente scese in città per dar l'attacco ai napoletani. Tutti i monaci erano tappati dentro. L'abate aveva fatto serrare i portoni dopo che tutta una popolazione spaventata s'era venuta a rifugiare nel convento. Don Blasco, nonostante il coltello che portava sotto la tonaca, verde dalla bile e dalla paura, era venuto a rifugiarsi insieme coi borbonici più sospettati al noviziato, come in un cantone più sicuro, dove per via dei bambini nessuno sarebbe entrato. Non di meno, diceva l'ira di Dio di quel vigliacco di suo fratello che era rimasto dentro col pretesto dei portoni chiusi, ma complottando ancora con quell'altro porco di Don Lorenzo Giulente. «Perché non scende in piazza? Perché non va a battersi? Gli apro io stesso, se vuole, carogna, traditore!» Il duca, in confabulazione con l'abate e col nipote priore, disapprovava invece l'attacco e riferiva il savio e prudente ultimatum del generale Clary. Clary mi disse ieri: «Aspettiamo quel che fa Garibaldi. Se resta a Palermo, mi imbarco coi miei soldati e me ne vado. Se no, avrete pazienza voi altri, resterò io». Mi pare che diceva bene. Che bisogno c'era ad attaccarlo? Le sorti della Sicilia non si decidono qui, ma non vogliono ascoltarmi. Che posso farci? Io me ne lavo le mani. «Non vogliono ascoltarlo?» tempestava Don Blasco. «Dopo che li ha scatenati? E adesso fa il gesuita? Per restar bene con Clarisse la ciurmaglia la peggio?» Il cannone tonava di rado. Gente arrivava dalla botte dell'acqua cercando rifugio. Diceva che la mischia più forte era impegnata ai quattro cantoni, ma che del resto i ribelli tiravano sulle truppe alla spicciolata, nascosti dietro agli angoli delle case o dalle terrazze. Le spie borboniche, pallide e sterefatte, andavano ficcandosi nelle celle dei fratelli. Garino, venuto dei primi a chiudersi a San Nicola, s'attaccava alla tonaca di Don Blasco e pareva più di qua che di là. Anche il principino stava al fianco dello zio, non osando neppure lagnarsi delle busse ricevute, mentre Giovannino Radalì e gli altri ragazzi liberali, attorniato fra Carmelo, gli dicevano: «Adesso arriva Garibaldi, andremo tutti via, non ci torneremo più». Prima di sera cessò lo scampanio e il cannoneggiamento. Don Blasco, andato a interrogare i passanti dai muri della Flora, tornò agitando le braccia e smascellandosi dalle risa. «La gran rivoluzione è finita! Sono usciti i lancieri, hanno nettato le strade! Evviva! Evviva!» La notizia venne confermata da tutte le parti, ma il duca prudentemente restò dentro per il momento. La gioia di Don Blasco fu però di corta durata. Il domani, avuti gli ordini da Napoli, Clary si preparò la partenza e, consegnata alla città una giunta provvisoria, si imbarcò il giorno appresso con tutti i suoi soldati. Don Lorenzo Giulente col nipote, saliti a San Nicola, invitarono il duca al municipio, dove i migliori cittadini attendevano a disciplinare la rivoluzione. Don Gaspare Uzeda, nonostante le assicurazioni dei Giulente, nonostante le prove della popolarità riacquistata tra i liberali, temeva che qualcuno non gli rimproverasse il suo rimpiattamento a San Nicola, nel giorno dell'azione, che i rivoluzionari del 48 non gli rammentassero le storie antiche. Le gambe, pertanto, gli vagellavano nell'entrare al municipio, nel traversar la corte piena di gente, nel salir su dove deliberavano. Ma a poco il sorriso gli spuntava sulle labbra pallide e chiuse, il sangue tornava a circolargli liberamente nelle vene, poiché da tutte le parti lo salutavano rispettosamente o cordialmente. I popolani si inchinavano, gli amici stringevagli la mano esclamando: «Finalmente! Ci siamo! Non abbiamo più padroni! Adesso finalmente i padroni siamo noi!» La cosa più urgente era l'ordinamento di una qualunque forza pubblica, di una milizia civica che prestasse servizio finché si sarebbe formata la Guardia Nazionale. Adesso tutti parlavano in piazza, dai balconi, per eccitare il popolo o per discutere il da fare nelle società che si venivano costituendo. Ma il duca, incapace di dire due parole di seguito in pubblico, atterrito all'idea di dover parlare dinanzi alla folla, scendeva giù a incontrarla al portone e se la cavava gridando con essa: «Viva Garibaldi! Viva Vittorio Emanuele! Viva la libertà!» e conducendo al caffè i volontari garibaldini, pagando loro gelati e sigari e liquori. Viva Uraqua era altrettanto frequente quanto Viva Garibaldi o Vittorio Emanuele. Benedetto non era più in Sicilia. Nei primi giorni aveva aiutato lo zio Lorenzo e il duca a ordinare la rivoluzione, arringando al popolo, parlando nei circoli con un'eloquenza che tutti ammiravano, scrivendo articoli nell'Italia risorta fondata dallo zio per propugnare l'annessione al Piemonte. Poi, nonostante l'opposizione del padre e della madre, si era ingaggiato Garibaldino nel reggimento delle guide ed era partito per il continente. Arrivando in città, Lucrezia trovò una lettera del giovane, il quale le annunziava che andava a raggiungere Garibaldi per compiere il proprio dovere verso la patria, e le raccomandava di non piangerlo se la sorte gli avrebbe concesso di morire per l'Italia. La questione dell'annessione, del miglior modo di votarla, appassionava in quel momento la pubblica opinione. Alcuni volevano affidarne il mandato a un'assemblea da eleggere, altri predicavano il suffragio diretto. Ogni giorno, col governatore della città, con Don Lorenzo Giulente e i capi liberali, il duca sosteneva il plebiscito. «Il popolo deve essere lasciato libero di pronunziarsi. Si tratta delle sue sorti. Vedete come han fatto nel resto d'Italia». Questo consiglio, mentre accresceva a mille doppi la sua popolarità, gli scatenava addosso più violento l'odio di Don Blasco e di Donna Ferdinanda e la critica dello stesso Don Eugenio. Al Belvedere, dove il principe tornò alla fine di settembre per la villeggiatura, Lucrezia lesse i bollettini della battaglia del Volturno, che portavano Benedetto Giulente tra i feriti. Il volontario Giulente era ferito d'arma bianca alla coscia destra. Arrivò 15 giorni dopo, la vigilia del plebiscito, con altri volontari siciliani reduci dal Volturno. Lo zio Lorenzo, il duca d'Oragua, il governatore e la Guardia Nazionale andarono loro incontro. Dal balcone del palazzo di città, gremito di guardie nazionali, di reduci, di patrioti, di cittadini ragguardevoli, Benedetto girò uno sguardo sulla piazza, dove non sarebbe cascato un grano di miglio. Poi levò la sinistra. La sua fama d'oratore era già stabilita. Tacquero a quel gesto. «Cittadini», cominciò con voce chiara e ferma, «noi non possiamo e non dobbiamo ringraziarvi di questa trionfante accoglienza. Sapendo come i vostri applausi non siano diretti alle nostre persone, ma all'idea generosa e sublime che guidò il dittatore da Quarto a Marsala». Scoppiò un uragano d'applausi in mezzo al quale la voce dell'oratore si perdé. Sogno di Dante e Machiavelli, sospiro di Petrarca e Leopardi, palpito di 20 secoli. Ad essa, alla gran patria comune, alla nazione risorta, all'Italia una, gli evviva, gli applausi e il trionfo. Egli additava la folla il duca, maestoso e marziale, nella divisa di maggiore. Cittadini, prodigioso è il cammino da noi fatto in 5 mesi, ma un ultimo passo ci resta. L'entusiasmo dal quale vi veggo animati mi dà guanto che sarà fatto. Il sole di domani saluti la Sicilia unita per sempre alla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele. Già i sì colossali erano tracciati sui muri, sugli usci, per terra. Al portone del palazzo il duca ne aveva fatto scrivere uno gigantesco col gesso. E il domani, in città, nelle campagne, frotte di persone li portavano al cappello, stampati su cartellini di ogni grandezza e d'ogni colore. Donna Ferdinanda, al bel vedere, scorgendo i contadini che per non saper leggere avevano messo le schede sottosopra, esclamava «Iss! Iss!» e pronunziando «Kiss! Kiss!» che è la voce con la quale si mandan via i gatti, commentava «Ma non dicono sì, dicono iss! Kiss! Kick! Fuori! Kiss!» Lucrezia gonfiava. Eccitata dalle notizie del trionfo di Giulente, impaziente di tornare in città per rivederlo, irritata dagli sconvenienti motteggi della zia. Il principe aveva fatto tracciare anche lui un gran sì sul muro della villa, per precauzione, e la folla dei contadini scioperati giù in strada batteva le mani e gridava «Viva il principe di Francalanza!» Mentre dentro don Eugenio dimostrava con la storia alla mano che la Sicilia era una nazione e l'Italia un'altra, e donna Ferdinanda sgolavasi. «Ah, se torna Francesco!» «Zia, non tornerà!» esclamò alla fine Lucrezia. Allora la zitellona parve volesse mangiarsela viva. «Anche tu, scioccone bestiaccia, sentite chi parla adesso, e non lo sai il nome che porti, pazza bestiona! Credi anche tu agli eroismi di questi rifiuti di galera o dei bardassa sguagliati e cialtroni?» La botta era tirata a Giulente. Lucrezia s'alzò e andò via sbattendo gli usci. Thank you. portone, una comitiva di 10 o 12 individui, fra i quali c'erano i due Giulente, zio e nipote, cercavano del duca. Il principe, in compagnia della moglie, gridava qualche cosa quando all'apparir della cugina tacque subitamente. «Non sapete che ci son visite?» disse costei entrando. «La commissione delle società, per offrire la candidatura al duca. Una bella commedia, già che tutto è combinato prima. E solo i Giulente di persone conosciute, tutto il resto, certe facce...» «Mio zio è padrone di ricevere chi vuole», rispose il principe. «Adesso i tempi sono mutati e non si possono fare tante difficoltà. È quel che dicevo anche a mia moglie». E voltati i tacchi, stava per andarsene, quando la voce di donna Ferdinanda, che sopravveniva, lo fece fermare. La zitellona, più gialla del solito, sudava fiele, con una cera arcigna e dura da mettere spavento. «Dunque è vero?» domandò a denti stretti senza neppure accorgersi di donna Graziella. «Me l'ha detto lui stesso», rispose il principe. «Dinanzi alla cugina possiamo parlare. Gli pare una cosa bellissima, un partito vantaggioso, un terno al lotto. E tu? Tu non gli hai detto nulla, tu?» «Io? Gli ho detto che dovrebbe tornare nostra madre dall'altro mondo per sentire una cosa simile, per vedere ciò che succede in questa casa, in qual modo si rispettano le sue volontà. Questo gli ho detto. Ma è lo stesso che dire al muro: se mia sorella non fosse stravagante», continuava il principe, «non penserebbe a maritarsi con quella salute, non darebbe retta a quel rompicollo che le dice di volerle bene per vanità, facendo il repubblicano». Intanto, giù nell'amministrazione, i delegati delle società, messi in presenza del duca, erano stati da questo invitati a sedersi in giro. Giulente nipote, preso a parlare in qualità d'oratore, diceva: «Signor duca, in nome dei sodalizi patriottici, il Circolo Nazionale, l'Unione Civica, la Lega Operaia, il Riscatto Italiano, i Figli della Nazione, dei quali le presento le rappresentanze, veniamo a compiere il mandato affidatoci di pregarla affinché ella accetti la candidatura al Parlamento italiano. Cittadini, sono confuso e vi ringrazio veramente. Sono stato felice, orgoglioso anzi direi, di aver potuto contribuire come ho potuto al riscatto nazionale e della grand'opera dell'unificazione della nazione. Ma veramente ciò che voi mi domandate è superiore alle mie povere forze». «Perdoni», riprese il giovanotto, «se ella avesse altre ragioni per rifiutare, ragioni private o d'affari, noi ci inchineremmo, non potendo permettere che il suo sacrificio vada troppo oltre. Ma se l'unica obiezione consiste nella sua incapacità, ci permetta di dirle che non tocca a lei riconoscerle se è capace oppur no». «Signori miei», fece a un tratto Giulente zio, mettendo fine al cortese contrasto, «per ora egli non ci dice né sì né no. Lasciamo che ci dorma sopra». «Ecco, grazie, così», rispose il duca. «Benissimo, vi prometto che ci penserò, che farò il possibile. Ma intanto grazie a tutti. Ringraziate per me le società. Verrò poi io stesso a fare il mio dovere». La gran maggioranza del collegio era per lui e nel coro degli adepti le voci discordi rimanevano soffocate. Di tanto in tanto si trovavano attaccati alle cantonate o circolavano per i caffè e le farmacie certi fogli anonimi dove si leggevano brutte notizie, giudizi inquietanti, oscure minacce. Egli, frattanto, continuava a propugnare l'elezione del duca. Con la parola in mezzo alle società, con gli scritti, nell'Italia risorta e nelle stampe volanti intitolate «Chi è il duca d'Oragua?», «Un patrizio patriotta?» e via discorrendo. Fin dal 1848 l'insigne gentiluomo schierossi contro il governo del re Bomba, tanto maggiore il suo merito in quanto egli non aveva da rimproverargli torti fatti a lui o ai suoi, ma al popolo intero. Apre la sua casa vita a Bixio ed a Menotti, rende ai liberatori gli onori della città. Sollecitato a rappresentare il primo collegio al Parlamento, modestamente declina l'offerta, volendo essere primo ai sacrifici, ultimo agli onori. Ma il paese lo vuole. La sorella Palermo ce lo invidia. E chi porta il nome di Duca d'Oragua non può sottrarsi alla volontà del paese. Egli sarà il nostro deputato. Il duca dal canto suo riparlava al principe del matrimonio di Lucrezia, tesseva l'elogio del giovane, asseriva che era un partito da non lasciarsi sfuggire, perché i Giulente avevano quel solo figliuolo al quale sarebbero andate tutte le loro sostanze. Già padre Camillo aveva tenuto un simile discorso alla ragazza. Aveva cominciato a dirle che quell'unione era avversata da tutti in famiglia, non perché presumevano che restasse zitella, quantunque, benché, ma per la ragione che non era un partito conveniente. Lucrezia non aveva risposto una sillaba. «Che cosa vogliono?» disse quando il confessore tacque, «per lasciarmelo sposare. Dicano ciò che vogliono e farò come vorranno». Così, quando il duca, che non aveva ancora parlato con la nipote della domanda di Giulente, gliela partecipò e le disse nel tempo stesso che Giacomo desiderava, prima che gli si desse una risposta, sistemare le questioni di interesse, Lucrezia si dichiarò pronta. Il principe, che aveva avuto molte conferenze col signor Marco, venne fuori a chiedere, anche a nome del fratello coerede, che fosse presa come base la divisione fatta dalla madre, dimostrandone con gran lusso di documenti e di cifre la giustezza. Dimostrando altresì che la parte del padre non era mai esistita fuorché nella fantasia dello zio Don Blasco. Esistevano però le cambiali che egli aveva pagato. Sua sorella doveva dunque sostenere la sua parte in proporzione del legato. A conti fatti, non le toccavano più di 8.000 onze. Lucrezia accettò questa somma. Tutto parve così stabilito, ma all'ultimo momento il principe mise allo zio duca una nuova condizione. «Io voglio regolare anche la situazione degli altri legittimari. Avevano tutti ragione, o han torto tutti. Non pare a vostra eccellenza logico e giusto? Giacché dobbiamo metter mano alla carta bollata, bisogna uscirne in una sola volta. Ne parli, vostra eccellenza, agli altri e li metta d'accordo». Chiara e il marchese non avevano le stesse ragioni per chinare il capo ai patti del principe, ma il momento era propizio per tentar di indurre anche questi altri ad una transazione, giacché non vivevano se non dell'attesa del figlio, e la gioia di quell'imminenza dell'avvenimento li colmava, era tale che li disponeva a passar sopra ad ogni altro interesse. Perciò, quando il duca riferì loro che Lucrezia si maritava ed aveva concluso la transazione, approvarono, giudicando soltanto che l'affare degli interessi trattenuti come compenso delle spese di mantenimento faceva poco onore al principe. Contenta lei del resto, contenti tutti. Restava Ferdinando, dal quale il principe voleva le 2.000 onze di quota di debiti. Sull'animo del babbeo Lucrezia sola poteva. Ella, però, invece di parlare col fratello, si mise a letto, rifiutando di veder gente, accusando sofferenze misteriose. Thank you.